Platone, Fedro. Caro Fedro, dove vai? E da dove vieni? Dalla casa di Lisia, Socrate, il figlio di Cefalo. E vado a fare una passeggiata fuori dalle mura. Ho passato parecchio tempo là, seduto, fin dal mattino, e ora, seguendo il consiglio di Acumeno, compagno mio e tuo, faccio delle passeggiate per le strade, perché, a quanto dice, tolgono la stanchezza più di quelle sotto i portici. E dice bene, amico mio. Dunque, Lisia era in città, a quanto pare. Sì, alloggia da Epicrate, nella casa di Monco, quella vicina al tempio di Zeus Olimpio. E come avete trascorso il tempo? Lisia non vi ha forse imbandito, è chiaro, i suoi discorsi? Non saprai se hai il tempo di ascoltarmi mentre cammino. Ma come, credi che io, per dirla con Pindaro, non faccia del sentire come avete trascorso il tempo tu e Lisia una faccenda superiore a ogni negozio? Muoviti allora, se vuoi parlare. Senza dubbio, Socrate, l'ascolto ti si addice, perché il discorso su cui noi ci siamo intrattenuti era, non so in che modo, sull'amore. Lisia ha scritto di un bel giovane che viene tentato, ma non da un amante, e ha comunque trattato anche questo argomento in modo davvero elegante. Sostiene infatti che bisogna compiacere chi non ama piuttosto che chi ama. E bravo, avesse scritto che bisogna compiacere un povero piuttosto che un ricco, un vecchio piuttosto che un giovane, e tutte quelle cose che vanno bene a me e alla maggior parte di voi. Allora sì che i suoi discorsi sarebbero urbani e utili al popolo. Io ora ho tanto desiderio di ascoltare che se facessi a piedi la tua passeggiata fino a Megara e seguendo Erodico, arrivato alle mura, tornassi di nuovo, non rimarrei dietro a te. Cosa dici, ottimo Socrate? Credi che io, da profano quale sono, ricorderò in modo degno di lui quello che Lisia, il più bravo a scrivere dei nostri contemporanei, ha composto in molto tempo e a suo agio? Ne sono ben lungi. Eppure vorrei avere questo più che molto oro. Fedro, se io non conosco Fedro, mi sono scordato anche di me stesso. Ma non è vera né l'una né l'altra cosa. So bene che lui, ascoltando un discorso di Lisia, non l'ha ascoltato una volta sola, ma ritornandovi più volte sopra lo ha pregato di ripeterlo, e quello si è lasciato convincere volentieri. Poi però neppure questo gli è bastato, ma alla fine, ricevuto il libro, ha esaminato i passi che più di tutti bramava, e poiché ha fatto questo standosene seduto fin dal mattino, si è stancato ed è andato a fare una passeggiata, conoscendo, corpo d'un cane, il discorso ormai a memoria, credo, a meno che non fosse troppo lungo. E così si è avviato fuori dalle mura per recitarlo, e imbattutosi poi in uno che ha la malattia di ascoltare discorsi, lo ha visto e nel vederlo si è rallegrato di avere chi potesse corribanteggiare con lui e lo ha invitato ad accompagnarlo. Ma quando l'amante dei discorsi lo ha pregato di declamarlo, si è schermito come se non desiderasse parlare, ma alla fine avrebbe parlato anche a viva forza se non lo si fosse ascoltato volentieri. Tu dunque, Fedro, pregalo di fare adesso quello che comunque farà molto presto. Per me, veramente, la cosa di gran lunga migliore è parlare così, come sono capace, poiché mi sembra che non mi lascerai assolutamente andare prima che abbia parlato in qualunque modo. Ti sembra davvero bene. Allora farò così. In realtà, Socrate, non l'ho proprio imparato tutto, parola per parola. Ti esporrò tuttavia il concetto più o meno di tutti gli argomenti con i quali lui ha sostenuto che la condizione di chi ama differisce da quella di chi non ama, uno per uno e per sommi capi, cominciando dal primo. Prima però, carissimo, mostrami che cos'hai nella sinistra sotto il mantello. Ho l'impressione che tu abbia proprio il discorso. Se è così, tieni presente che io ti voglio molto bene, ma se c'è anche Lisia, non ho assolutamente intenzione di offrirmi alle tue esercitazioni retoriche. Via, mostramelo. Smettila. Mi hai tolto, Socrate, la speranza che riponevo in te di esercitarmi. Ma dove vuoi che ci sediamo a leggere? Giriamo di qui e andiamo lungo l'Ilisso, Poi ci siederemo dove ti sembrerà un posto tranquillo. A quanto pare mi trovo a essere scalzo al momento giusto. Tu infatti lo sei sempre. Perciò sarà per noi facilissimo camminare bagnandoci i piedi nell'acqua. E non spiacevole, tanto più in questa stagione a quest'ora. Fa da guida dunque, e intanto guarda dove ci potremo sedere. Vedi quell'altissimo platano? E allora là c'è ombra, una brezza moderata ed erba su cui sederci, o anche sdraiarci, se vogliamo. Puoi pure guidarmici. Dimmi, Socrate, non è proprio da qui, da qualche parte dell'Ilisso, che a quanto si dice Borea ha rapito Lizia? Così si dice. Proprio da qui, dunque, le acque appaiono davvero dolci, pure e limpide, adatte alle fanciulle per giocarvi vicino. No, circa 2 o 3 stadi più in giù, dove si attraversa il fiume per andare al tempio di Agra, appunto là c'è un altare di Borea. Non ci ho mai fatto caso, ma dimmi, Perseus, tu, Socrate, sei convinto che questo racconto sia vero? Ma se non ci credessi, come fanno i sapienti, non sarei una persona strana, e allora, facendo il sapiente, potrei dire che un soffio di Borea la spinse giù dalle rupi vicine mentre giocava con Farmacea, ed essendo morta così, si è sparsa la voce che è stata rapita da Borea. Oppure all'Areopago, poiché c'è anche questa leggenda, che fu rapita da là e non da qui. Io però, Fedro, considero queste argomentazioni sì ingegnose, ma proprie di un uomo fin troppo valente e impegnato, e non del tutto fortunato, se non altro perché, dopo questo, gli ha gioco forza a raddrizzare la forma degli ippocentauri e poi della chimera, quindi gli si riversa addosso una folla di tali gorgoni e pegasi e un gran numero di altri esseri straordinari, dalla natura strana e portentosa. E se uno, non credendoci, vorrà ridurre ciascuno di questi esseri al verosimile, dato che fa uso di una sapienza rozza, avrà bisogno di molto tempo libero. Ma io non ho proprio tempo per queste cose, e il motivo, caro amico, è il seguente. Non sono ancora in grado, secondo l'iscrizione delfica, di conoscere me stesso. Quindi mi sembra ridicolo esaminare le cose che mi sono estranee quando ignoro ancora questo. Perciò mando tanti saluti a queste storie, standomene di quanto comunemente si crede riguardo ad esse, come ho detto poco fa, ed esamino non queste cose, ma me stesso, per vedere se per caso non sia una bestia più intricata e che getta fiamme più di tifone, oppure un essere più mite e più semplice, partecipe per natura di una sorte divina e priva di vanità fumosa. Ma cambiando discorso, amico, non era forse questo l'albero a cui volevi guidarci? Proprio questo. Perera, è un bel luogo per sostare. Questo platano è molto frondoso e imponente. L'alto agnocasto è bellissimo con la sua ombra, ed essendo nel pieno della fioritura, rende il luogo assai profumato. Sotto il platano poi scorre la graziosissima fonte di acqua molto fresca, come si può sentire col piede. Dalle immagini di fanciulle e dalle statue sembra essere un luogo sacro ad alcune ninfe e ad Acheloo. E se vuoi ancora, come amabile e molto dolce il venticello del luogo. Una melodiosa eco estiva risponde al coro delle cicale. Ma la cosa più leggiadra di tutte è l'erba, poiché disposta in dolce declivio sembra fatta apposta per distendersi e appoggiarvi perfettamente la testa. Insomma, hai fatto da guida a un forestiero in modo eccellente, caro Fedro. Mirabile amico, sembri una persona davvero strana. Assomigli proprio, come dici, a un forestiero condotto da una guida e non a un abitante del luogo. Non lasci la città per recarti oltre confine e mi sembra che tu non esca affatto dalle mura. Perdonami, carissimo, io sono uno che ama imparare. La terra e gli alberi non vogliono insegnarmi nulla. Gli uomini in città, invece, sì. Mi sembra però che tu abbia trovato la medicina per farmi uscire. Come infatti quelli che conducono gli animali affamati agitano davanti a loro un ramoscello verde o qualche frutto, così tu, tenendomi davanti al viso discorsi scritti sui libri, sembra che mi porterai in giro per tutta l'Attica e in qualsiasi altro luogo vorrai. ma per il momento, ora che sono giunto qui, io intendo sdraiarmi. Tu scegli la posizione con cui pensi di poter leggere più comodamente e leggi. Ascolta dunque. Sei a conoscenza della mia situazione e hai udito che ritengo sia per noi utile che queste cose accadano. Ma non stimo giusto non poter ottenere ciò che chiedo perché non mi trovo ad essere tuo amante. Gli innamorati si pentono dei benefici che hanno fatto allorquando cessa la loro passione, mentre per gli altri non viene mai un tempo in cui conviene cambiare parere. Infatti fanno benefici secondo le loro possibilità, non per costrizione, ma spontaneamente, per provvedere nel migliore dei modi alle proprie cose. Inoltre coloro che amano considerano sia ciò che è andato loro male a causa dell'amore, sia i benefici che hanno fatto, e aggiungendo a questo l'affanno che provavano, pensano di aver reso già da tempo la degna ricompensa ai loro amanti. Invece, coloro che non amano non possono addurre come scusa la scarsa cura delle proprie cose per questo motivo, né mettere in conto gli affanni trascorsi, né incolpare gli amanti delle discordie con i familiari. Sicché, tolti di mezzo tanti mali, non resta loro altro se non fare con premura ciò che pensano sarà loro gradito quando l'avranno fatto. Inoltre, se vale la pena di tenere in grande considerazione gli amanti perché dicono di essere amici al sommo grado di coloro che amano e sono pronti sia a parole sia coi fatti a rendersi odiosi agli altri pur di compiacere gli amanti, è facile comprendere che, se dicono il vero, terranno in maggior conto quelli cui si innamoreranno in seguito, ed è chiaro che, se parrà loro il caso, ai primi faranno persino del male. D'altronde, come può essere conveniente concedere una cosa del genere a chi ha una disgrazia tale che nessuno, per quanto esperto, potrebbe tentare di allontanare? Essi stessi, infatti, ammettono di essere malati più che assennati e di sapere che sragionano, ma non sanno dominarsi. Di conseguenza, una volta tornati in senno, come potranno credere che vada bene ciò di cui decidono in questa disposizione d'animo? E ancora, se scegliessi il migliore degli amanti, la tua scelta sarebbe tra pochi. Se invece scegliessi quello più adatto a te tra gli altri, sarebbe tra molti. Perciò c'è molta più speranza che quello degno della tua amicizia si trovi tra molti. Se poi, secondo l'usanza corrente, temi di guadagnarti del biasimo, nel caso la gente lo venga a sapere, è naturale che gli amanti, credendo di essere invidiati dagli altri, così come si invidiano tra loro, si inorgogliscano parlandone e per ambizioni mostrino a tutti che non hanno faticato invano, mentre coloro che non amano, essendo più padroni di sé, scelgono ciò che è meglio in luogo della fama presso gli uomini. Inoltre è inevitabile che molti vengano a sapere o vedano gli amanti accompagnare i loro amati e darsi un gran da fare, cosicché quando li vedono discorrere tra loro credono che essi stiano insieme o perché il loro desiderio si è realizzato o perché sta per realizzarsi, ma non provano affatto ad accusare coloro che non amano perché stanno assieme, sapendo che è necessario parlare con qualcuno per amicizia o per qualche altro piacere. E se poi hai paura perché credi sia difficile che un'amicizia perduri e temi che se sorgesse un dissidio per un altro motivo la sventura sarebbe comune ad entrambi, mentre in questo caso verrebbe un gran danno a te perché hai gettato via ciò che più di tutto tieni in conto, a maggior ragione dovresti temere coloro che amano. Molte sono le cose che li affliggono e credono che tutto accada a loro danno. Per questo allontanano gli amati, anche dalla compagnia con gli altri, per timore che quelli, provvisti di sostanze, li superino in ricchezza e quelli forniti di cultura li vincano in intelligenza. Insomma, stanno in guardia contro il potere di tutti quelli che possiedono un qualsiasi altro bene. Così, dopo averti indotto a inimicarti queste persone, ti riducono privo di amici. E se badando al tuo interesse sarai più assennato di loro, verrai in discordia con essi. Chi invece non si è trovato ad essere nella condizione di amante, ma ha ottenuto grazie alle sue doti ciò che chiedeva, non sarebbe geloso di chi si accompagna a te, anzi odierebbe coloro che rifiutano la tua compagnia, pensando che da costoro sei disprezzato, ma trae beneficio da chi sta assieme a te. Perciò c'è molta più speranza che dalla cosa nasca tra loro amicizia più che inamicizia. Per di più, molti degli amanti hanno desiderio del corpo prima di aver conosciuto il carattere e aver avuto esperienza delle altre qualità individue dell'amato, così che non è loro chiaro se vorranno ancora essere amici quando la loro passione sarà finita. Per quanto riguarda invece coloro che non amano, dal momento che erano tra loro amici, e anche prima di fare questo, non è verosimile che la loro amicizia risulti sminuita dal bene che hanno ricevuto, anzi, esso rimane come ricordo di ciò che sarà in futuro. Inoltre, ti si addice a diventare migliore, dando retta a me piuttosto che a un amante, e si lodano le parole e le azioni dell'amato anche al di là di quanto è bene, da un lato per timore di diventare odiosi, dall'altro perché essi stessi danno giudizi meno retti per via del loro desiderio. Infatti l'amore produce tali effetti. A coloro che non hanno fortuna fa ritenere molesto ciò che agli altri non arreca dolore, mentre spinge coloro che hanno fortuna ad elogiare anche ciò che non è degno di piacere, tanto che agli amanti si addice più la compassione che l'invidia. Se dai retta a me, innanzitutto starò assieme a te prendendomi cura non solo del piacere presente, ma anche dell'utilità futura. Non vinto dall'amore, ma padrone di me stesso, senza suscitare una violenta inimicizia per futili motivi, ma irritandomi poco e non all'improvviso per motivi gravi, perdonando le colpe involontarie e cercando di distogliere da quelle volontarie. Queste sono prove di un'amicizia che durerà a lungo. Se invece ti sei messo in mente che non possa esistere amicizia salda se non si ama, conviene pensare che non potremmo tenere in gran conto né i figli né i genitori, e non potremmo neanche acquistarci amici fidati, poiché i vincoli con essi ci sono venuti non da una tale passione, ma da altri rapporti. Inoltre, se si deve compiacere più di tutti chi ne ha bisogno, anche nelle altre circostanze conviene fare benefici non ai migliori, ma ai più indigenti, poiché, liberati da grandissimi mali, serberanno la massima gratitudine ai loro benefattori. E allora, anche nelle feste private, è il caso di invitare non gli amici, ma chi chiede l'elemosina e ha bisogno di essere sfamato, poiché costoro ameranno i loro benefattori, li seguiranno, verranno alla loro porta, proveranno grandissima gioia, serberanno non poca gratitudine e augureranno loro ogni bene. Ma forse conviene compiacere non chi è molto bisognoso, ma chi soprattutto è in grado di rendere il favore. Non solo chi chiede, ma chi è degno della cosa. Non quanti godranno del fiore della tua giovinezza, ma coloro che anche quando sarai diventato vecchio ti faranno partecipe dei loro beni. Non coloro che ottenuto ciò che desideravano se ne vanteranno con gli altri, ma coloro che per pudore ne taceranno con tutti. Non coloro che hanno cura di te per poco tempo, ma coloro che ti saranno amici allo stesso modo per tutta la vita. Non coloro che, cessato il desiderio, cercheranno il pretesto per un'inimicizia, ma coloro che daranno prova della loro virtù quando la tua bellezza sarà sfiorita. Dunque tu ricordati di quanto ti ho detto e considera questo, che gli amici riprendono gli amanti perché sono convinti che questa pratica sia cattiva, mentre nessuno dei familiari ha mai rimproverato a coloro che non amano di provvedere male ai propri affari per questo motivo. Forse ora mi domanderai se ti esorto a compiacere tutti quelli che non amano. Ebbene, io credo che neanche chi ama ti inviti ad avere questo atteggiamento con tutti quelli che amano. Infatti, né per chi riceve benefici la cosa è degna di un'uguale ricompensa, né, se anche lo volessi, ti sarebbe possibile tenerlo nascosto allo stesso modo agli altri. Bisogna invece che da ciò non venga alcun danno, ma un vantaggio per entrambi. Io penso che quanto è stato detto sia sufficiente. Se tu desideri ancora qualcosa, E pensi che sia stata tralasciata? Interroga. Che te ne pare del discorso, Socrate? Non è stato pronunciato in maniera straordinaria, in particolare per la scelta dei vocaboli? In maniera davvero divina, amico, al punto che ne sono rimasto colpito. E questa impressione l'ho avuta per causa tua, Fedro, guardando te, perché mi sembrava che esultassi per il discorso intanto che lo leggevi. E dato che credo che in queste cose tu ne sappia più di me, ti seguivo e nel seguirti ho partecipato al tuo furore bacchico, o testa divina. Ma dai, ti pare il caso di scherzare così? Ti sembra che io scherzi e che non abbia fatto sul serio? Niente affatto, Socrate, ma dimmi veramente, per Zeus, protettore degli amici, credi che ci sia un altro tra i greci in grado di parlare sullo stesso argomento in modo più grande e copioso di lui? Ma come? Bisogna che il discorso sia lodato da me e da te anche sotto questo aspetto, ossia perché il suo autore ha detto ciò che bisognava dire e non solo perché ha tornito ciascun termine in modo chiaro, forbito e puntuale. Se proprio bisogna, devo convenirne per amor tuo, dal momento che mi è sfuggito a causa della mia nullità. Infatti ho posto mente soltanto all'aspetto retorico del discorso. Quanto all'altro, credevo che neppure Lisia lo ritenesse sufficiente. A meno che tu, Fedro, non abbia un'opinione diversa, mi è parso che abbia ripetuto due o tre volte gli stessi concetti, come se non avesse a disposizione grandi, risorse per dire molte cose sullo stesso argomento, o forse come se non gliene importasse nulla. Mi sembrava pieno di baldanza giovanile quando mostrava com'era bravo, dicendo le stesse cose prima in un modo e poi in un altro, e parlarne in tutti e due i casi nella maniera migliore. Ti sbagli, Socrate. Precisamente in questo consiste il discorso. Infatti non ha tralasciato nulla di ciò che meritava d'essere detto in argomento, tanto che nessuno mai saprebbe dire cose diverse e di maggior pregio rispetto a quelle dette. In questo non potrò più darti retta. Uomini e donne antichi e sapienti, che hanno parlato e scritto di queste cose, mi confuteranno se per farti piacere convengo con te. Chi sono costoro? E dove hai ascoltato cose migliori di queste? Ora, lì per lì, non so dirlo, ma è chiaro che le ho udite da qualcuno, dalla bella Saffo o dal saggio Anacreonte, o da qualche scrittore in prosa. Da cosa lo arguisco per affermare ciò? In qualche modo, divino fanciullo, sento di avere il petto pieno e di poter dire cose diverse dalle sue, e non peggiori. So bene che non ho concepito da me niente di tutto ciò, dato che riconosco la mia ignoranza. Allora resta, credo, che da qualche altra fonte io sia stato riempito attraverso l'ascolto come un vaso. Ma per indolenza ho scordato proprio questo, come e da chi le ho udite. Ma hai detto cose bellissime, nobile amico. Neanche se te lo ordinano, devi riferirmi da chi e come le hai udite. Ma metti in atto esattamente il tuo proposito. Hai promesso di dire cose diverse, in maniera migliore e non meno diffusa, rispetto a quelle contenute nel libro, astenendoti da queste ultime. Quanto a me, io ti prometto che, come i nove arconti, innalzerò ad Elfi una statua d'oro a grandezza naturale, non solo mia, ma anche tua. Sai, carissimo, è veramente d'oro, Fedro. Se pensi che io affermi che Lisia ha sbagliato tutto e che è possibile dire cose diverse da tutte queste, ciò credo non potrebbe capitare neanche allo scrittore più scarso. Tanto per incominciare, riguardo all'argomento del discorso, chi credi che, sostenendo che bisogna compiacere coloro che non amano piuttosto che coloro che amano, abbia ancora altro da dire quando abbia tralasciato di lodare l'assennatezza degli uni e biasimare la dissennatezza degli altri, il che appunto è necessario? Ma credo che si debbano concedere e perdonare simili argomenti a chi ne parla, e di tali argomenti è da lodare non l'invenzione, ma la disposizione, mentre degli argomenti non necessari e difficili da trovare è da lodare oltre alla disposizione anche l'invenzione. Concordo con ciò che dici. Mi sembra di aver parlato in modo opportuno. Pertanto farò anch'io così. Ti concederò di stabilire come principio che chi ama è più ammalato di chi non ama. E quanto al resto, se avrai detto altre cose in maggior quantità e di maggior pregio di queste, ergiti pure come statua lavorata a martello a Olimpia, presso l'offerta votiva dei Cipselidi. L'hai presa sul serio, Fedro, perché io, scherzando con te, ho attaccato il tuo amato. E credi che io proverò veramente a dire qualcosa di diverso e di più vario a confronto dell'abilità di lui? A questo proposito, caro, mi hai dato l'occasione per un'eguale presa. Ora tu devi parlare assolutamente, così come sei capace, in modo da non essere obbligati a fare quella cosa volgare da commedianti che si rimbeccano a vicenda, e non volermi costringere a tirar fuori quella frase. Socrate, se io non conosco Socrate, mi sono dimenticato anche di me stesso. O di quell'altra. Desiderava dire, ma si schermiva. Ma tieni bene in mente che non ce ne andremo di qui prima che tu abbia esposto ciò che sostenevi di avere nel petto. Siamo noi due soli, in un luogo appartato. Io sono più forte e più giovane. Da tutto ciò, dunque, intendi quel che ti dico e vedi di non parlare a forza piuttosto che spontaneamente. Ma beato Fedro, mi coprirò di ridicolo improvvisando un discorso sui medesimi argomenti, da profano che sono, a confronto di un autore bravo come lui. Sai com'è la questione? Smettila di fare il ritroso con me, poiché penso di avere una cosa che, se te la dico, ti costringerà a parlare. Allora non dirmela. No, invece te la dico proprio, e le mie parole saranno un giuramento. Ti giuro. Ma su chi? Su quale Dio? Vuoi forse su questo platano qui? Ebbene, ti giuro che se non pronuncerà il tuo discorso proprio davanti a questo platano, non ti mostrerò e non ti riferirò più nessun altro discorso di nessuno. Ah, birbante, come hai trovato bene il modo di costringere un uomo amante dei discorsi a fare ciò che tu ordini. Perché allora fai tanti giri? Niente più indugi dal momento che hai proferito questo giuramento. Come potrei astenermi da un tale banchetto? Allora parla. Sai dunque come farò? Riguardo a cosa? Parlerò dopo essermi coperto il capo, per svolgere il discorso il più velocemente possibile e non trovarmi in imbarazzo per la vergogna, guardando verso di te. Purché tu parli, quanto al resto fa come vuoi. Orsù, o muse dalla voce melodiosa, vuoi per l'aspetto del canto, vuoi perché siate state così chiamate dalla stirpe dei Liguri, amante della musica. Narrate insieme a me il discorso che questo bellissimo giovane mi costringe a dire, così che il suo compagno, che già prima gli sembrava sapiente, ora gli sembri ancora di più. C'era una volta un fanciullo, o meglio un giovinetto assai bello, di cui molti erano innamorati. Uno di loro, che era astuto, pur non essendo innamorato meno degli altri, aveva convinto il fanciullo che non lo amava, e un giorno, saggiandolo, cercava di persuaderlo proprio di questo, che bisogna compiacere chi non ama piuttosto che chi ama, e gli parlava così. Innanzitutto, fanciullo, uno solo è l'inizio per chi deve prendere decisioni nel modo giusto. Bisogna sapere su cosa verte la decisione, o è destino che si sbagli tutto. Ai più, sfugge, che non conoscono l'essenza di ciascuna cosa. Perciò, nella convinzione di saperlo, non si mettono d'accordo all'inizio della ricerca e proseguendo ne pagano le naturali conseguenze, poiché non si accordano né con se stessi né tra di loro. Che non capiti dunque a me e a te ciò che rimproveriamo agli altri, ma dal momento che ci sta dinanzi la questione se si debba entrare in amicizia con chi ama piuttosto che con chi non ama, stabiliamo di comune accordo una definizione su cosa sia l'amore e quale forza abbia. Poi, tenendo presente questa definizione e facendovi riferimento, esaminiamo se esso apporta un vantaggio o un danno. Che l'amore sia appunto un desiderio è chiaro a tutti, che inoltre anche chi non ama desideri le cose belle lo sappiamo. Da che cosa allora distingueremo chi ama e chi non ama? Occorre poi tenere presente che in ciascuno di noi ci sono due principi che ci governano e ci guidano, e che noi seguiamo dove essi ci guidano. L'uno, innato, è il desiderio dei piaceri. L'altro è un'opinione acquisita che aspira al sommo bene. Talvolta questi due principi dentro di noi si trovano d'accordo, talvolta invece sono in disaccordo. Talvolta prevale l'uno, talvolta l'altro. Pertanto, quando l'opinione guida con il ragionamento al sommo bene e prevale, la sua vittoria ha il nome di temperanza, mentre se il desiderio trascina fuori di ragione verso i piaceri e domina in noi, il suo dominio viene chiamato dissolutezza. La dissolutezza ha molti nomi, dato che è composta di molte membra e molte parti, e quella che tra queste forme si distingue conferisce a chi la possiede il soprannome derivato da essa, che non è né bello né meritevole da acquistarsi. Il desiderio relativo al cibo, che prevale sulla ragione del bene migliore sugli altri desideri, è chiamato ingordigia, e farà sì che chi lo possiede venga chiamato con lo stesso nome. Quello che tiranneggia nell'ubriachezza e conduce in tale stato chi lo possiede, è chiaro quale epiteto gli toccherà. Così anche per gli altri nomi fratelli di questi, che designano desideri fratelli, a seconda di quello che via via signoreggia, è ben evidente come conviene chiamarli. Il desiderio, a motivo del quale è stato fatto tutto il discorso precedente, ormai è pressoché manifesto, ma è assolutamente più chiaro una volta detto che se non viene detto. Ebbene, il desiderio irrazionale, che ha il sopravvento sull'opinione incline a ciò che è retto, una volta che tratto verso il piacere della bellezza e corroborato vigorosamente dai desideri adesso congiunti della bellezza fisica, ha prevalso nel suo trasporto, prendendo nome dal suo stesso vigore, è chiamato Eros. Ma, caro Fedro, non sembra anche a te, come a me, che mi trovi in uno stato divino? Certamente, Socrate, ti ha preso una certa facilità di parola, contrariamente al solito. Ascoltami dunque in silenzio. Il luogo sembra veramente divino, perciò non meravigliarti se nel prosieguo del discorso sarò spesso invasato dalle ninfe. Le parole che proferisco adesso non sono lontane dai ditirambi. Dici cose verissime, e tu ne sai la causa. Ma ascolta il resto, poi forse quello che mi viene in mente potrebbe andarsene via. A questo provvederà un dio. Noi invece dobbiamo tornare col nostro discorso al fanciullo. Dunque, carissimo, cosa sia ciò su cui bisogna prendere decisioni, è stato detto e definito. Ora, tenendo presente questo, dobbiamo dire il resto, ossia quale vantaggio o quale danno presumibilmente verrà da uno che ama e da uno che non ama a chi concede i suoi favori. Per chi è soggetto al desiderio ed è schiavo del piacere, è inevitabile rendere l'amato il più possibile gradito a sé. Ma per chi è malato, tutto ciò che non oppone resistenza è piacevole, mentre tutto ciò che è più forte o pari a lui è odioso. Così un amante non sopporterà di buon grado un amato superiore o pari a lui, ma vuole sempre renderlo inferiore e più debole. L'inferiore è l'ignorante rispetto al saggio, il vile rispetto al coraggioso, chi non sa parlare rispetto a chi ha abilità oratorie, chi è tardo di mente rispetto a chi è d'ingegno acuto. È inevitabile che, se nell'animo dell'amato nascono o ci sono per natura tanti difetti o anche di più, l'amante ne goda e ne procuri altri, piuttosto che essere privato del piacere del momento. Ed è altresì inevitabile che sia geloso e causa di grande danno, poiché distoglie l'amato da molte altre compagnie vantaggiose, grazie alle quali diverrebbe veramente uomo. Danno che diventa grandissimo quando lo allontana da quella compagnia, grazie alla quale diventerebbe una persona molto assennata. Essa è la divina filosofia, da cui inevitabilmente l'amante tiene lontano l'amato per paura di essere disprezzato, così come ricorrerà alle altre macchinazioni per fare in modo che sia ignorante di tutto e guardi solo al suo amante. e in questa condizione l'amato sarebbe fonte di grandissimo piacere per lui, ma del massimo danno per se stesso. Quindi, per quanto riguarda l'intelletto, l'uomo che prova amore non è in nessun modo utile come guida e come compagno. Poi si deve considerare la costituzione del corpo e quale cura ne avrà colui che ne diventerà padrone, dato che si trova costretto a insegnare il piacere anziché il bene. Lo si vedrà seguire una persona molle e non vigorosa, non cresciuta alla pura luce del sole, ma nella fitta ombra, inesperta di fatiche virili e di secchi sudori, esperta invece di una vita delicata ed effeminata, ornata di colori e abbellimenti altrui per mancanza dei propri, intenta a tutte quelle attività conseguenti a ciò che sono evidenti e non meritano ulteriori discussioni. Ma stabiliamo un punto essenziale e poi passiamo ad altro. Per un corpo del genere, in guerra come in tutte le altre occupazioni importanti, i nemici prendono coraggio, gli amici e gli stessi amanti provano timore. Perciò questo punto è da lasciar perdere, dato che è evidente, e bisogna passare invece a quello successivo, cioè quale vantaggio o danno arrecherà ai nostri beni la compagnia e la protezione di chi ama. È chiaro a chiunque, ma soprattutto all'amante, che egli si augurerebbe più di ogni altra cosa che l'amato fosse orbo dei beni più cari, più preziosi e più divini. Accetterebbe che rimanesse privo di padre, madre, parenti e amici, ritenendoli causa di impedimento e biasimo della dolcissima compagnia che ha con lui. E se possiede sostanza in oro o altri beni, egli penserà che non sia facile da conquistare, né, una volta conquistato, trattabile. Ne consegue inevitabilmente che l'amante provi gelosia se l'oggetto del suo amore possiede delle sostanze e gioisca se le perde. Inoltre, l'amante si augurerà che l'amato sia senza moglie, senza figli e senza casa, il più a lungo possibile, poiché brama di cogliere il più a lungo possibile il frutto della sua dolcezza.